Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, qualcosa, seppur lentamente, si muove nel campo della trattativa su Alitalia. Sorrido perché, come qui hanno fatto notare da giorni interi, che dovrebbe essere l'ultimo giorno possibile, da quello che capiamo pochi hanno dubbi che o la situazione si risolve adesso in maniera definitiva nei prossimi giorni, o diciamo la data ultima sarà quella di martedì 30, probabilmente si riuscirà a far slittare di un po' la data indicata dall'ENAC, ma non si andrà oltre il 30 di settembre, stante così le cose, quindi in assenza di un piano e di garanzie. Ancora, parleremo di banche oggi, perché? Perché mentre la crisi americana va avanti, e chi la ferma avrebbe voglia di dire, anche oggi i cali per fortuna sono contenuti intorno al 0,5% in Europa, ma insomma poi vedono anche titoli perdere tra il 3 e il 4%, penso a Unicredit -3,3%, a Fiat -4,3%, dicevo, mentre la crisi va avanti, in America continuano a esserci queste operazioni di shopping, chiamiamole così, in cui i pezzi di banche che sono in difficoltà vengono comprate da banche straniere. Sono molto attivi in questi giorni i gruppi asiatici e in particolar modo giapponesi, abbiamo visto Nomura, Mitsubishi, oggi ci sono anche altre indicazioni in questo senso, perché Sumitomo sta comprando per diverse centinaia di miliardi di yen pezzi di Goldman Sachs, ma un nome mitico nella finanza, ossia Warren Buffett, ha comprato 5 miliardi di dollari di azioni di Goldman Sachs, e altri 5 miliardi sono entrati come capitali freschi in quel gruppo. Mentre, dicevo, pezzi di banche americane vengono comprate da banche straniere, vorremmo oggi commentare il fatto che una volta tanto si può parlare bene delle banche italiane, perché a bocce ferme, per quello che vediamo, le banche italiane sono state pochissimo, se non marginalmente, coinvolte dalla crisi dei mutui americani, degli strumenti strutturati che l'hanno accompagnata. Le svalutazioni, poi le leggeremo, sono veramente irrisorie o briciole rispetto a quanto è successo in America, ma anche rispetto a quanto è successo in Gran Bretagna, in Svizzera e parzialmente in Germania. Allora, alcuni di voi già chiedono di essere risparmiati da una puntata su Alitalia. Ebbene, purtroppo non vi potrò accontentare perché fa parte della cronaca, speriamo che siano le ultime puntate su Alitalia. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo del sistema bancario, ma anche di Telecom Italia, perché domani c'è il CDA, non sono previste operazioni straordinarie, ma il mercato scommette che potrebbe entrare un socio straniero, particolarmente libico, come socio. Insomma, il titolo guadagna l'1,4%, bene anche Intesa San Paolo oggi +1,6%, Generali +2%, Mediolanum +2,7% e Fondiaria +2,1%. Adesso però le altre notizie in breve. Allora, New York, il petrolio, siamo a $108 al barile dopo il calo delle scorte americane, quindi rialza leggermente la testa. Per quello che ha a che fare non con la finanza ma con l'economia reale, in America le case esistenti quanto a vendite hanno segnato un -2,2%, quindi sono calate più di quanto non attendessero gli analisti le cessioni di immobili esistenti. Ancora le vendite al dettaglio a luglio più 2,1% su base annua, più 0,6% mese su mese, ed è un primo recupero, è un po' presto per cantare vittoria, ma insomma, visto che le vendite al dettaglio sono l'indicatore principale che abbiamo sui consumi per quanto riguarda l'Istat, le vendite più in maggior crescita sono quelle relative ai prodotti alimentari, più 3,8%, mentre i prodotti non alimentari si fermano più 1,1%. Nel frattempo accelerano le entrate tributarie, le entrate fiscali di competenza nel periodo gennaio-luglio hanno fatto un più 3,8%, 9 miliardi in più rispetto al 2007, questo al netto delle cosiddette entrate straordinarie una tantum. Allora, per la gioia di molti ascoltatori che non ne possono più della vicenda l'Italia, però io ripeto, attenzione, sono veramente giorni decisivi, per cui è vero che ne parliamo da anni, ma mai come in questi giorni si sta cercando di capire se dal primo di ottobre voleremo all'Italia oppure no, che non è un dettaglio per il mondo anche del lavoro. Abbiate pazienza, vediamo di capire che cosa è successo oggi. Il commissario straordinario Fantozzi ha detto circa un'ora fa che la situazione all'Italia può degenerare in qualunque momento. Mi fanno segno dalla regia che adesso poco fa la nostra Francesca Malaguti lo ha intercettato all'uscita dalla riunione. Sentiamo questo passaggio. Che cosa scriverà nella relazione all'ENAC? Ci sono nuovi affari? Questo lo leggerà domani, se glielo dico oggi non mi sembra cortese neanche nei confronti dell'ENAC. Quindi io sono ottimista, sì. Sono ottimista ragionevolmente. Sono ragionevolmente ottimista perché sono convinto che le distanze sono tali per cui alla fine il buon senso di tutti farà in modo che siano superate. Le cose sono in moto, quindi pian piano si muoveranno. Le cose sono in moto, pazienza, un po' di calma. Queste le dichiarazioni appena rilasciate in uscita dalla Commissione del Senato dal commissario straordinario Augusto Fantozzi, il quale aveva ricordato che il fallimento potrà venire solo se non c'è altra speranza. Nel frattempo, su Alitalia, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è tornato sulla vicenda e ha detto qualcuno ha fatto saltare l'accordo per dare un colpo al governo. Quanto all'ipotesi di alleanza, che forse è la notizia più nuova oggi, cioè domani si riunirà il board di Air France e KLM per discutere anche del dossier Alitalia, dalla Germania qualche interessamento di Lufthansa, British Airways zitta, però insomma Berlusconi oggi ha detto attenzione, non c'è solo Lufthansa, ci sono anche Air France e British Airways. Non è un mistero che l'ipotesi di Lufthansa sia caldeggiata, oltre che da un esponente dell'opposizione come Enrico Letta, anche dal presidente, dal governatore della regione Lombardia Roberto Formigoni. E infatti la portavoce corporate di Lufthansa ha detto non rilasciamo dichiarazioni in merito all'argomento all'Italia, non commentiamo, c'è interesse generalmente per l'Italia. Mentre dalla Gran Bretagna fonti interne ma non confermate della British Airways dicono attenzione, un interessamento della British Airways potrà arrivare solo dopo il via libera al piano della CAI. Però è innegabile, ma ripeto ne parleremo più avanti, che più che essere interessate all'Italia in sé, queste tre compagniere che sono i tre leader a livello europeo non vogliono regalare all'altra, diciamo, un vantaggio competitivo, cioè presidiare il mercato italiano, mettere un piede dentro e poi magari fra 5 anni comprarsela tutta. Quindi diciamo l'interesse è più per non essere danneggiata dalla concorrente che un interesse vero e proprio verso l'Italia. Va bene, questo la breve cronaca oggi per fortuna di Alitalia. 349-238-6666 per i vostri sms. Cerchiamo di capire da un lato con la cronaca ma poi anche con il ragionamento come mai, una cosa che molti hanno notato, pochi hanno voluto però sottolineare, Come mai da questa crisi, che non ha precedenti dal 29 a detta di tutti e che costerà probabilmente 1.000 miliardi di dollari almeno di svalutazioni, siamo già arrivati a 500, c'è ancora robaccia in giro, alcuni l'hanno paragonata al latte contaminato cinese, non si capisce dove sia. Ebbene, come mai in questo scenario l'Italia ne stia uscendo, per fortuna, praticamente illesa quanto al sistema bancario? Eh sì, perché mentre Bush torna a dire di essere fiducioso, che il suo piano da 1.000 miliardi sarà un piano robusto, il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha detto ci sono gravi minacce però sulla stabilità finanziaria, e poi tra l'altro sempre Bernanke ha detto la crescita americana sta rallentando e sta andando sotto il potenziale, una risposta è arrivata anche dall'Europa. Eh sì, perché il commissario europeo agli affari economico monetari Joaquín Almunia ha definito una buona iniziativa il piano americano, ma ha anche detto la risposta deve essere strutturale, non è una crisi, diciamo, emergenza pura e in qualche modo congiunturale, è la più grande crisi, ha continuato Almunia, dei nostri tempi, e le perdite aumenteranno ancora. E in questo quadro internazionale, ripeto, spicca il fatto che l'Italia ne stia uscendo, lo dico con estrema soddisfazione, nessuno gioca al massacro qui, il sistema bancario italiano ne stia uscendo quasi illeso, con perdite irrisorie. Di questo vorrei parlare, una volta tanto, quindi parliamo bene delle banche, con il direttore generale dell'ABI, ossia l'Associazione delle Banche Italiane, Giuseppe Zadra. Buonasera, dottor Zadra. Buonasera, dottor Borisoni. Allora, io cito le svalutazioni, quelle ufficiali, a parte Unicredito che ha annunciato di avere circa 1 miliardo di euro di svalutazioni, Monte dei Paschi 50 milioni, Intesa 33, BPM 19 milioni, Generali 5 milioni. Visto che a livello mondiale le svalutazioni bancarie hanno toccato i 500 miliardi di dollari, stiamo parlando di briciole. E anche a bocce ferme l'esposizione su Lehman Brothers, che pure era garantita da un voto molto alto di Standard & Poor's, è bassa. Il sistema bancario non arriva ai 500 milioni di euro, il sistema assicurativo ha un po' di più, un miliardo e mezzo. Prima domanda, dottor Zadra, secondo lei perché, rispetto anche alla Svizzera, alla Germania, all'Inghilterra, il sistema bancario italiano ne sta uscendo quasi illeso? Il rettore della Bocconi, l'economista Tabellini, ha detto qualche giorno fa perché era così arretrato che non aveva imbarcato questi strumenti pericolosi, rischiosi, non controllabili e gestibili. Allora, cerco di risponderle con un po' di ordine, anche se l'argomento è complesso e quindi probabilmente non sono chiarissimo lo stesso. Il sistema bancario italiano è stato poco coinvolto nella crisi del mercato dei titoli strutturati, perché il sistema bancario italiano è stato tutto proteso nel finanziare, secondo gli schemi tradizionali, il che vuol dire con finanziamenti, le imprese italiane. Se mai avesse avuto eccessi di disponibilità, quelli che li hanno avuti li hanno impiegati da una parte nella grande ristrutturazione che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni e dall'altra in una fortissima espansione verso i mercati dell'est Europa. Il problema del mercato americano ha toccato, e qualche volta ha toccato con una certa severità, alcune banche europee, ma dico alcune per dire che non sono mai molte, che erano particolarmente attive sul mercato finanziario americano. Lei ha citato prima le banche svizzere, esempio preclaro, le grandi banche svizzere che ormai hanno raggiunto dimensioni globali avevano delle quote di mercato sugli Stati Uniti d'America importantissime, quasi come le banche americane. Quindi sono rimaste, diciamo così, impigliate nella loro attività negli Stati Uniti. Le banche italiane non hanno rilevanti attività sul mercato statunitense e di conseguenza non sono state coinvolte, diciamo, in un tracollo tutto statunitense. Prima ragione. Seconda ragione. Alcune banche europee, sto parlando del più famoso di questi casi, che è sempre quello della Northern Rock inglese, non avevano problemi di attività negli Stati Uniti, ma avevano un modello di finanziamento tipico del mercato, diciamo così, più evoluto, che è quello di avere avuto a disposizione enormi masse di liquidità sui mercati monetari. E quindi si erano spinte a finanziare attività, diciamo, di lungo termine, come sono i prestiti per l'acquisto degli immobili, finanziandosi sul mercato monetario. La crisi americana ha provocato un blocco praticamente del mercato monetario internazionale e le banche che si finanziavano e vivevano di quello ovviamente sono rimaste fortemente danneggiate da quell'effetto. Quindi non è un problema di arretratezza, perché per arretratezza si intende la incapacità o la non capacità di gestire bene la banca, ma è un modello, diciamo, di banca, il nostro, che si rivolgeva essenzialmente alle imprese nostre, agli investimenti verso l'est Europa e si finanziava principalmente con la raccolta sul mercato italiano e non con la raccolta sul mercato internazionale del breve termine. Magari fatta con strumenti derivati o strutturati. Allora, se ho ben capito, lei dice non è arretratezzo, perlomeno, io lo capisco così, le banche italiane hanno continuato a svolgere l'attività tradizionale bancaria, o perlomeno è rimasta prevalente l'attività tradizionale, per di più vi è stato tutto un processo che conosciamo molto bene di accorpamento di grandi gruppi bancari, di espansione verso est, soprattutto con i due principali istituti di questo paese, Unicredit e Intesa San Paolo, ma non solo. E quindi, insomma, noi abbiamo continuato a fare il lavoro che facevamo anche prima, quindi non abbiamo imbarcato strumenti poi incontrollabili, non eravamo molto esposti negli Stati Uniti perché abbiamo poche attività lì. E devo dire, forse anche la cultura, diciamo, di certi strumenti finanziari, non essendo prevalente, ne ha fatti anche acquistare pochi, perlomeno stando ai dati che abbiamo. Le chiedo, mi dica. Prego, chiedo. No, dico, le chiedo, dalla sua analisi emerge, ma anche se forse lei non lo può dire in maniera così netta, un po' una rivalsa e una rivincita della banca tradizionale, quella che per missione eroga credito, presta soldi ai cittadini o alle imprese, raccoglie i soldi dei cittadini e anche quando le imprese, gestisce il rischio. Cioè, qui stiamo, quella che sembrava la banca, mi passi il termine, la parte più sfigata del mondo bancario, quella che ancora faceva lo sportello, parlava con l'imprenditore, andava a erogare il mutuo perché gli altri si occupavano dall'alto dei loro gessati, dei loro gemelli, di merchant banking, investment banking, prodotti strutturati, swaps, possiamo parlare di una rivincita? Possiamo parlare di una rivincita in senso, diciamo così, psicologico, senz'altro. Ricordo che non è un aspetto italiano questa rivincita, ma è un aspetto che caratterizza la resistenza alla crisi di adesso o la non partecipazione alla crisi di adesso di tutte le attività, anche in America, di commercial banking tradizionale, cioè quello in cui il bilancio di una banca è rappresentato dalla raccolta, diciamo così, dai clienti e dall'impiego su clienti o su imprese in forma di prestito. La crisi di oggi è veramente la crisi di un modello che si è sviluppato molto negli ultimi 10 anni. E cioè della finanza fatta con i titoli strutturati e quindi di una finanza che provvedeva alle imprese con dei mezzi, diciamo così, non propri, ma raccolti direttamente sul mercato e portandoli alle imprese attraverso l'acquisto di questa tipologia di titoli. E quindi è proprio una differenza, diciamo così, del tipo di attività di intermediazione finanziaria che si parla. Se posso entrare in un particolare che però mi sembra essenziale per capire quello che sta succedendo, noi adesso cominciamo ad usare l'espressione investment banking, e lei l'ha usata già, e investment banking è un'espressione, come posso dire, molto dilatata, in cui c'è dentro di tutto. Quindi io non credo che sia la morte dell'investment banking quello che è successo, perché attività tipiche dell'investment banking, che sono i servizi di consulenza alle imprese, i servizi che servono per fare l'M&A e compagnia bella, certo, resteranno, continueranno ad esserci. Il vero problema è la tecnica che è stata usata della trasformazione di tutto quello che era possibile trasformare in securities e di securities trasformate in derivati dalle securities di primo, di secondo e di terzo livello, le quali sono cresciute, diciamo così, a dismisura al di fuori di qualsiasi sistema di controllo. Rispondo però subito a un'obiezione degli ascoltatori al 349-238-6666. Abbiate pazienza, ma il valore del titolo in borsa conta poco, perché quando il mercato va tutto giù e Milano ha perso un 33% da inizio anno, Parigi ha perso un po' di meno, un 27%, Londra 25%, ma insomma è tutto negativo, è ovvio che i titoli bancari non potessero andare bene. Ma una cosa è dire che hai perso valore in borsa come capitalizzazione, una cosa è dire che ti porti a casa svalutazione da decine o centinaia di miliardi di dollari per investimenti sbagliati, sono due cose molto diverse. Comunque, dottor Zadra, per difendere e fare l'avvocato del diavolo, in realtà chi ha sostenuto in questi anni i prodotti strutturati, derivati, come appunto quelli per i mutui subprime, ha detto attenzione, con le cartolarizzazioni siamo riusciti a spalmare il rischio, invece che assumermelo solo io, il rischio lo girava un altro e quindi potevo accollarmi più rischi, in questo modo prestare più soldi alla gente, prestare più soldi anche dare mutui a chi non avrebbe mai avuto accesso al credito. Per cui io vorrei capire, secondo lei, lo strumento che era sbagliato o l'utilizzo che se n'è fatto? Io sono fra coloro che sono convinti che lo strumento in sé non era sbagliato, che la creazione della finanza nuova e moderna è stato, diciamo così, un sostanziale beneficio per la finanza e per tutto il mondo delle imprese e dei cittadini, ma come sempre il tema della quantità è un problema, diciamo così, che non si può dimenticare. Anche fare banca tradizionale, e lo sappiamo bene anche noi in Italia, e se basta che ricordiamo l'inizio degli anni 90, aveva in sé le sue debolezze, i suoi difetti, e noi ne abbiamo pagato il conto amaramente fra il 90 e il 95-96, questo lei lo ricorda, e tutti è bene che lo ricordino, cioè non è che il puro esercizio del credito sia per definizione facile, sano e non porti con sé pericoli e conseguenze, ma mentre la gestione del credito aveva dietro, o ha dietro, diciamo così, 100 anni di esperienza di regolamentazione, di controlli e via dicendo, e ciò nonostante, vedi caso inglese, anche la gestione del credito tradizionale presenta i suoi problemi, la gestione della finanza strutturata, invece, era nuova, non aveva ancora una struttura regolamentare sopra, dietro, di fianco, che diciamo così, né limitasse o né contenesse i rischi, è uscita dal controllo delle autorità, anche perché non c'erano autorità che dovessero regolarla, e quindi è esplosa con una classica bolla. Perché faccio questo discorso? Scusi, uso un'espressione. Quando si parla di regolamentazione, qualcuno usa un termine inglese che è lo scope della regulation, che vuol dire l'ambito della regolamentazione. Allora noi abbiamo avuto un ambito della regolamentazione riservato al sistema bancario per 150 anni, diciamo così. Prima c'era ma non era regolato. Poi abbiamo avuto il mondo dei titoli classici, obbligazioni e azioni, tutta la regolamentazione, chiamiamola così, di borsa in Italia e in tutto il mondo. Noi l'abbiamo rifatta negli ultimi 10 anni, in America l'hanno rifatta negli anni 30. Il mondo della finanza strutturata non è stato sottoposto a una regolamentazione come quello dei titoli classici e come quello del credito classico. Ed è veramente uscito dal controllo, perché nessuno aveva la funzione di controllare questa roba. E qui capiamo questo che... è il problema della regolamentazione. Per cui quando ha detto che non si sa quanto latte contaminato ci sia in giro, lei non va molto distante come analisi, perché dice, appunto, mancando anche una storia, uno strumento, una capacità di controllo, stiamo a vedere. Il problema degli anni prossimi sarà questo, di assistere ad un nuovo sistema di regolamentazione che ricomprenda dentro tutto questo mondo della finanza cosiddetta strutturata, in modo da evitare che risuccedano cose di questo genere. Un'ultima domanda, dottor Zadra, visto che stiamo, tra virgolette, celebrando, accanto al funerale di un certo tipo di finanza, celebriamo la solidità della banca tradizionale, avremmo voluto celebrarla in situazioni diverse, chiaramente, però tant'è, le chiedo, a questo punto, gli imprenditori italiani, i clienti italiani, superata la buriana, perché capisco anch'io che i tassi Euribor, con il clima di sfiducia che c'è tra le banche, continua a restare alto, non vi fidate da banca a banca, nessuno capisce cosa ci sia ancora in circolo e quindi il costo è più alto. È anche vero che questo costo lo stiamo pagando anche noi clienti di un mutuo, noi imprenditori o gli imprenditori che hanno bisogno di un prestito per sviluppare l'attività. Torneremo a breve, secondo lei, a una banca che, capita la lezione americana, si concentrerà ancora di più nel, diciamo, creare sviluppo sul territorio, sviluppo attraverso l'assistenza alle famiglie per avere una stabilità finanziaria, sviluppo attraverso l'assistenza agli imprenditori condividendo progetti? Voglio dire, abbiamo visto perdite miliardarie su cartaccia, ogni tanto si può rischiare qualche milione in più su progetti industriali, no? Detta così non mi piace, ma quello che voglio confermare a tutti è che questa attività, diciamo così, di supporto all'economia nella forme, chiamiamo così, tradizionali, quindi del finanziamento delle imprese e del finanziamento delle famiglie, continua ad essere in corso. A me non piace leggere su dei giornali, va bene, che c'è una stretta del credito, non c'è nessun dato che lo dimostri. Le banche... L'Euribor a 3 mesi, insomma, un po' più alto... Questo è un problema di costo, del resto se lei, è giovane, ma ricorderà sicuramente quando i nostri tassi erano tutti a 2 cifre, insomma, no? Sì. E quindi, ma quello è un problema di costo della provvista, non è un problema di disponibilità di fondi. Quindi noi oggi abbiamo statistiche, ma aggiornate, in cui gli impieghi hanno continuato a crescere secondo tendenze, diciamo così, del 10%. Quindi il sistema delle imprese e delle famiglie italiane ha a disposizione i fondi per crescere, magari crescesse tutto in termini di produzione industriale e quant'altro al 10%, capisce? Mm-hmm. Quindi il sistema bancario è dietro e supporta con il credito tutta l'attività delle imprese, come ha fatto sempre e continuerà a farlo, non c'è nessun conflitto, diciamo così, di interesse, la banca vive di questo lavoro. Sicuramente l'esercizio del credito sarà ancora più, professionalizzato, ma questo in Italia sta succedendo ormai da almeno 5 o 6 anni e lei sa benissimo che il tasso delle sofferenze che misura la capacità delle banche di fare credito alle imprese, e cioè di distinguere chi paga da chi non ripaga, è sceso all'1% ormai da alcuni anni e si mantiene sull'1%. Quindi io credo che non bisogna dare nessun segno di allarme al mondo, diciamo così, delle imprese e di chi prende finanziamenti dalle banche, come se le banche per questa ragione internazionale stessero per cambiare d'accordo con lei che non c'è nessun allarme. Era anche un invito, appunto, visto che c'è questa rivincita della banca tradizionale, appunto concentrare ancora di più gli sforzi su questo aspetto, visto che quello, diciamo, di finanza derivata e strutturata non ha portato all'estero. Ma io spero che non voglio dire, nessuno deve leggere, io su questo, scusi, voglio essere molto chiaro, almeno come mia posizione personale. Non dobbiamo buttare via bambini e acque sporche tutto insieme, o addirittura buttare via il bambino e tenersi l'acqua sporca, capito? La finanza derivata ha intrinsecamente dei meriti, naturalmente deve essere anche quella gestita con la stessa technicalities, prudenza, capacità professionale, che anzi è più alta eventualmente, e non abusata, questo è il punto. Chiarissimo il ragionamento del direttore generale dell'ABI, Giuseppe Zadra, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei, buonasera a tutti. E chiaramente, grazie di nuovo, chiaramente c'è un altro fronte che sta emergendo, oggi lo tratteremo solo marginalmente all'interno di questa vicenda dei mutui e degli strumenti strutturati, quelli che alcuni chiamano cartaccia, e di dove sia finita, e riguarda gli enti locali italiani. Già voglio dire, il Sole 24 Ore se ne occupò alcune settimane fa con una cifra complessiva, dovrebbero essere circa 35 miliardi di euro quelli che possono far capo alla finanza strutturata dei nostri enti locali, cioè anche gli enti locali, i comuni e le regioni hanno cartolarizzato, si sono affidati a strumenti, Lehman Brothers faceva anche consulenza su questo. Un problema enorme sta uscendo da questo punto di vista nella gestione complessiva, non solo per gli elementi di finanza strutturata, a Catania. Se ne sono già occupati i nostri GR, io però vorrei farvi ascoltare che cosa ha dichiarato oggi il Presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, proprio sulla crisi tremenda che si sta abbattendo a livello anche di gestione ordinaria sul comune di Catania, perché Lombardo è arrivato a ipotizzare la vendita degli immobili in mano al comune di Catania. Il comune di Catania, come credo anche quello di Roma, ha degli immobili inutilizzati, sfitti, chiusi, abbandonati da secoli. O li valorizza, li ristruttura, ci mette la gente, ci fa gli uffici, eccetera, o se proprio non gli servono a niente, ma questo spetta ovviamente valutarlo al comune stesso, può anche dismetterli, non c'è niente di male. Lei dice che è una situazione che abbiamo ereditato dal passato, però lei era vice sindaco di Catania quando c'era il precedente sindaco. Io ero vice sindaco di Catania e sono anche stato assessore ai lavori pubblici. Non ho gravato il bilancio del comune neppure di un euro per l'acquisto di un caffè. Gli stipendi comunque fino ad oggi sono stati pagati tutti i mesi e saranno pagati anche nei mesi a venire. Io credo che nell'arco di una decina di giorni, 15 al massimo, si definirà questa situazione, si supererà la crisi e si potrà guardare con tranquillità all'avvenire. Allora, parliamo adesso di borse, un paio di precisazioni alla luce degli sms che sono arrivati. Per quello che riguarda Catania, avete ragione, pensavo di averla ricordata, la cifra complessiva del buco del comune è di 357 milioni di euro, servono almeno 147 milioni di euro per uscire dalla situazione di bancarotta di fatto. Per quello che riguarda le banche invece, attenzione, ribadisco, il valore del titolo in borsa e quindi la capitalizzazione di borsa è una cosa, ma quello che è innegabile è che le svalutazioni portate a casa dalle banche italiane sono modestissime e mi auguro che resteranno tali, per cui un conto è l'andamento del titolo in borsa e un conto è quanti investimenti sbagliati e che perdite hanno portato a casa le banche italiane. Comunque, la borsa adesso meno 0,5% il Mibtel e anche l'S&P MIB, meno 0,6% Parigi, meno 0,3% Francoforte, meno 0,6% Londra. L'America perde lo 0,4% sul Dow Jones e sul Nasdaq guadagna invece lo 0,2%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Veniamo ai titoli. Molto bene oggi in Mediobanca, più 3,9%, Mediolanum più 3,1%, Alleanza più 2,94%, Generali più 1,6%, Fondiaria più 1,6%. e Intesa più 1,5%, e a maggior ragione spicca invece il dato di Unicredito che perde il 3,4%, così come UbiBanca perde il 2,6%. Eleonora. Sì, infatti, diciamo soprattutto nel settore bancario c'è stato un andamento molto contrastato. Alcune banche come Mediobanca sono andate molto bene, del resto i conti pubblicati la scorsa settimana erano record e il mercato inizia a prenderne atto. E c'è invece chi, come Unicredit, è andata particolarmente male. Meno 3,4 il bilancio finale, ma i titoli sono arrivati a perdere quasi il 5%. Sul mercato si era diffusa la voce che l'istituto avesse problemi di liquidità, voce che fonti prossime alla banca smentiscono, non solo, ma anche il portavoce di Unicredit ha ribadito che la banca non ha in programma alcun aumento di capitale, come ha detto la scorsa settimana l'amministratore delegato Alessandro Profumo. I titoli quindi hanno un po' ripreso quota, ma hanno chiuso comunque con questo ribasso del 3,4%. Ancora sui titoli, mentre devo contraddire chi scrive, ma agli azionisti interessa solo il valore in borsa del titolo, non il resto. Beh, mica tanto, perché siccome i titoli distribuiscono anche un dividendo, quando una banca porta a casa decine di miliardi di svalutazioni, e poi questo influisce anche sul risultato finale e quindi sull'utile e quindi sul dividendo. Detto questo, Fiat, peggior titolo dell'S&P MIB, meno 4,4% di nuovo a 10,2 euro per azione. Sì, esatto, Fiat appunto è stato uno dei peggiori titoli, complice il fatto che sono andati male un po' tutti i titoli auto in Europa. D'altra parte Fiat ha fatto senza dubbio peggio e ha ampliato le perdite proprio sul finale, visto che si era diffuso anche la voce che l'azienda potesse fare un profit warning, voce che è stata smentita dalla società proprio mentre stava chiudendo Piazza Affari, e che era stata alimentata dal fatto che ieri Iveco, la controllata che vende appunto camion, ha indicato che nel 2009 nell'Europa occidentale le immatricolazioni potranno segnare il passo, accusando un calo tra il 5 e il 10%. Ancora sui titoli, tu ricordavi degli assicurativi e quindi dopo la cessione anche della partecipazione di Fondi RSA in generale, ebbene tutto il settore, c'è un altro titolo in positivo sotto i riflettori oggi, mi riferisco a Telecom Italia, più 1,3% a 1,09 euro. Allora, domani c'è il Consiglio di Amministrazione, le voci di un eventuale ingresso libico si sono rincorse lungo tutta la seduta, anche se il gruppo ha smentito per domani che nel Consiglio di Amministrazione vi siano in previsione all'ordine del giorno operazioni straordinarie tipo l'aumento di capitale per l'eventuale ingresso di un socio arabo. L'andamento in borsa e come si è mossa anche alla luce di questa ipotesi? Sì, guarda, Telecom è stata uno dei titoli più controllati, diciamo, dalla borsa. Le azioni hanno registrato un progresso dell'1,3%, il mercato, a dispetto delle smentite, scommette che domani possa emergere qualche novità e soprattutto qualche operazione straordinaria, che sia poi lo scorporo della rete piuttosto che appunto un aumento di capitale per far entrare fondi esteri, si parla appunto del fondo libico. Peraltro poi nel pomeriggio Wall Street Journal invece ha sostenuto nell'edizione online che in verità il fondo libico potrebbe entrare anziché direttamente in Telecom Italia nella controllante Telco, che detiene quasi il 24% della compagnia telefonica. Sono tutte illazioni per adesso, ma d'altra parte il mercato sta di sicuro allerta. Sta allerta a questo punto, se mi permetti il gioco di parole. Andiamo avanti con i titoli, oltre a quelli già citati c'è anche Fastweb più 1,1 e Monte dei Paschi più 1%, nonostante l'abbassamento nel giudizio di rating ha tenuto bene il titolo. Popolare di Milano più 0,7%, ING ha tagliato infatti il rating su il target su Monte dei Paschi, così preciso l'affermazione. Enel più 0,3 e ancora i tacimenti più 0,3. Sull'altro fronte male Tenaris meno 4,3, Saipem meno 3,90, Atlantia meno 3,30, Luxottica meno 3%, ST Microelectronics meno 2,6, Autogrill meno 2,3, Mediaset meno 2,3, Seat meno 2,1, Impregilo e Pirelli perdono 1,5%, Mondadori e Snam l'1,1%. In una battuta, l'Espresso, un'altra giornata di pressione, meno 4,3%. Esatto, l'Espresso continua a soffrire, ieri i titoli avevano perso quasi il 10%, il 9,9%, proprio ieri appunto è emerso dall'Unione dei Pubblicitari che si assisterà a un rallentamento della raccolta pubblicitaria, in più diciamo a pesare sull'Espresso, oltre alle prospettive di raccolta pubblicitaria magra, è anche ancora un report negativo di Deutsche Bank emerso ieri, e nel quale gli analisti della banca d'affari raccomandano di vendere le azioni con un target più basso delle attuali quotazioni, pari a 1,7 euro. Ormai diventa anche una difficoltà lessicale di aggettivi, di sostantivi per definire, descrivere una trattativa ferma ma non morta, in corso ma senza sviluppi. Insomma, più che una trattativa sembra un ossimoro. Oggi si parla di barlumi di speranza, lo ha fatto lo stesso commissario all'Italia, il commissario straordinario Augusto Fantozzi, mentre il presidente del Consiglio Berlusconi ha ricordato che prima si chiude l'operazione con CAI e quindi l'offerta degli imprenditori, poi si valuteranno le alleanze con gli stranieri sotto il profilo dei soci di minoranza. E poi Berlusconi ha aggiunto: Lufthansa non è l'unica ipotesi, ci sono anche Air France e British Airways. Nel pomeriggio intanto si sono tenuti gli incontri a Palazzo Chigi con i vertici della CAI e poi una riunione tra il sottosegretario Gianni Letta e i ministri welfare Sacconi e trasporti Matteoli con i sindacati che hanno firmato l'accordo. Da quello che si è capito, comunque, resta come data ultima, al di là dei penultimatum, come li hanno chiamati alcuni, data ultima il 30 settembre, dove il commissario, se non riesce a trovare un piano, è costretto, diciamo, per non farsi levare la licenza dall'ENAC, a chiedere la sospensione. Fantozzi lo ha ribadito oggi, però aprendo a un cauto ottimismo, una specie, un altro, diciamo, quasi ossimoro. Sentiamo. Io sono ottimista, sì. Sono ottimista ragionevolmente. Sono ragionevolmente ottimista perché sono convinto che le distanze sono tali per cui alla fine il buon senso di tutti farà in modo che siano superate. Le cose sono in moto, quindi pian piano si calma. Pian piano, ma non troppo piano, speriamo, visto che la data è il 30 settembre, nel pomeriggio, in mattinata. Il commissario straordinario era stato invece un po' più pessimista, aveva detto: attenzione, il fallimento è un'ipotesi solo se non c'è più speranza. A settembre ci sono stati 100 milioni di euro in meno di ricavi, quindi peggiora il conto economico di Alitalia e la situazione, aveva detto Fantozzi, può degenerare in qualsiasi momento. Domani, aveva poi continuato il commissario, andrò all'ENAC che farà una relazione in cui spiegherò che la situazione finanziaria è gestibile nel breve, che sono state adottate le misure necessarie che riducono i voli, ed è una piccola morte annunciata, è un dolore per noi. Però Fantozzi ha anche precisato che se domani l'ENAC dovesse ritirare la licenza dell'Italia si rivolgerebbe al TAR, perché il regolamento comunitario può anche essere disapplicato. E poi anche qui un'altra immagine figurata, vediamo la luce, spero di vedere la luce in fondo al tunnel. Ma la cosa più interessante di Alitalia poi arriva oggi, oltre che da Fantozzi, anche dai sindacati. Allora sentiamo se anche il leader della CGIL, Guglielmo Epifani, vede qualche spiraglio, qualche luce in fondo al tunnel. Sentiamo al microfono della nostra Chiara Di Michele. Noi, ricordo, abbiamo posto il problema del partner internazionale. Una cordata ha bisogno di avere un riferimento in una grande compagnia mondiale, europea. C'erano parti che non venivano accolte delle condizioni sociali delle persone, c'era un problema sui contratti. E quindi dipenderà se si sposta, se cambiano le condizioni, se si riuscirà a fare quello che è stata sempre la mia preoccupazione. Perché ho visto tutti sempre pronti a puntare un indice sull'accordo. Nessuno che si è mai preoccupato di sapere se il giorno dopo dell'accordo le condizioni per la ripresa della compagnia ci potevano essere o meno. Noi abbiamo sempre tenuto il prima con il dopo, perché siccome si tratta di destino di migliaia di persone, del futuro di un pezzo importante dell'economia di questo paese, la responsabilità richiede che si ragioni sul prima e anche sul dopo. Questo è stato, è e sarà l'atteggiamento della CGIL. Allora, intanto è uscita un'agenzia, Gianni Dragoni, di Vito Riggio, presidente dell'ENAC, che dice qualunque cosa noi decideremmo, i voli fino a lunedì sono sicuramente garantiti per l'Italia, anche perché se dovessimo sospendere la licenza avremmo il problema del rientro della gente. Noi apprezziamo questa umanità di Vito Riggio, perché io vorrei vedere uno che sabato parte con l'Italia per Catania, arriva, magari si becca anche l'assenza di elettricità, poi deve tornare la domenica o lunedì mattina e non ha l'aereo, gli tocca prendere, insomma sarebbe un po' un problema. Ma al di là di questo, può arrivare dal fronte estero l'unica vera novità in questa trattativa? Per il momento potrebbe arrivare unicamente dal fronte estero, almeno questo è il tentativo che il governo, insieme alla cordata italiana CAI, al quale va sempre la preferenza del Presidente del Consiglio, stanno facendo, cioè anziché tentare subito di prendere l'Italia e le Yuan e poi negoziare con un partner estero, farlo entrare immediatamente. Cioè diventerebbe uno dei 17 imprenditori. Esatto, sì. Diventerebbe uno dei soci con una quota di minoranza, secondo le intenzioni della CAI. È da capire come risponderanno i partner esteri, che poi sono essenzialmente o la Lufthansa o il France. British Airways è nel novero dei contattabili, ma è distante e quindi non è interessata. Questo è il tentativo che stanno facendo in queste ore, ci sono contatti sia con Lufthansa sia con Air France. E domani c'è È un possibile nuovo scenario, è da vedere però, perché questi partner hanno dei piani, hanno delle condizioni, quindi è su questo che si stanno misurando le parti. Allora, intanto domani c'è il consiglio di amministrazione di Air France KLM e da dichiarazioni francesi il dossier all'Italia ci sarà sul tavolo, per cui è già un segnale. Ma io vorrei capire un'altra cosa, in questo caso mi interessa meno l'Italia ma più le strategie di Lufthansa e di Air France. Voglio dire, al di là delle dichiarazioni di intento, è ovvio che il posizionamento geografico dell'Italia e soprattutto il bacino molto ricco del nord Italia con gli aeroporti che ci sono interessa ugualmente lo snodo, l'hub Monaco di Baviera e l'hub Parigi. Per cui possiamo ipotizzare anche una gara che più che per acquisire l'Italia vada a danneggiare l'avversario da un punto di vista commerciale, cioè che l'interesse vero sia penalizzare per Lufthansa Air France e per France Lufthansa? Ma questo probabilmente fa parte della loro normale attività, cioè il francese contro il tedesco contro il francese. In questo caso c'è, diciamo, una nazione vinta, conquistata, il cui esercito si sta ritirando e loro sono più vicini alla pianura padana, no? Diciamo, dal punto di vista della battaglia economica, questo, e quindi stanno comunque cercando di conquistare spazi. Come? Lufthansa ha già deciso di posizionare dei voli con dei nuovi aeroplani a Malpensa per dei collegamenti in Europa e quindi non solo verso la Germania, volevano anche a Parigi dal febbraio 2009. C'è il tentativo di avere degli slot per fare per la prima volta una rotta come la Roma-Milano, se questi slot dovessero essere liberati perché l'Alitalia cessa le attività o le ridimensiona. C'è probabilmente l'attenzione a diventare il partner della nuova società se le condizioni saranno compatibili con quelli che sono i piani economici di redditività di queste due grandi compagnie europee. Allora, intanto ringrazio Gianni Dragoni e rassicuro gli ascoltatori che quando si chiuderà la vicenda d'Italia, Dragoni continuerà a lavorare solo 24 ore, non è che perderà il posto, si occupa già di molte altre cose, tra cui il calcio, che è sicuramente più divertente rispetto all'Italia. Per molti aspetti, grazie a Gianni Dragoni e da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.